si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. E arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Non ce la farò mai. Prenderò l'autobus al volo. Sono in un ritardo pazzesco. Devo timbrare il cartellino. Aspetta, come? Deve filmare, che la responsabilità ha una pena. C'è una pena lei? No. Lei non pure c'è. No, neanche. Aspetta, come? Affirmo col sangue. Forza, Fantozzi! Su, che... Ci mancano appena 100 metri! E poi arriva. Su, forza, Fantozzi! Dai! Dai! Forza! Quello che al tempo di Fantozzi sembrava una condanna, oggi in realtà sembra una grande, profonda liberazione da tutte le ambasce della vita. Tanto che il Comune di Torino si è deciso di togliere i firewall dalla sua rete aziendale e un'ora al giorno, l'ora di pausa, gratificherà gli impiegati permettendo loro di navigare in Facebook. Strano che la timbratura del cartellino è vista di solito come il suggello vergognoso di una schiavitù, la schiavitù dell'impiegato, ma in realtà è la più grande sicurezza che ha un essere umano di avere 8 ore quotidiane strappate al capriccio del destino. Una grande azienda pubblica è come una madre e al momento della timbratura d'entrata e fino a quello d'uscita si prende carico della coscienza del suo dipendente. Questi può smettere di arrovellarsi per una porzione notevole della giornata, quasi 8 ore, dimenticandosi così dell'implacabile scorrere dell'esistenza. Esiste tutta una mistica impiegatizia, io la conosco bene, l'ho vista, l'ho frequentata, e ha il suo momento più importante nella duplice timbratura del cartellino. Questo è il momento liturgico più profondo che serve per assicurare la continuazione della vita lavorativa. E oggi, con i problemi che ci sono, con le angosce che ci sono, in fondo, la vita dell'impiegato è qualcosa di invidiabile, qualcosa che forse tutti vorrebbero avere. La timbratura del cartellino si ripete 2 volte al giorno, una timbratura mattutina e una vespertina. La prima si compie di solito correndo. Pensate che la velocità del tratto finale che separa l'orologio in cui bisogna infilare il cartellino per obliterare è direttamente proporzionale a quanto prima si è concessa la pigrizia, agli impegni personali e, per chi può, ogni tanto, qualche volta al mese, anche a una notte di passione. Pronto? Come? No, il geometra Mughini è su a lavorare dal direttore laterale. Scusi un attimo, Pronto? Buongiorno, no, la signorina Silvani. Ciao a tutti. Allora, di che cosa avete bisogno? Di carta extra strong e nastri bicolori per le olivetti. Allora, mi raccomando, buon lavoro a tutti e giù col lavoro, mi raccomando. Cancelleria per i colleghi. Vado su a reparto per accelerare il lavoro. Quella di Ragioner Fantozzi è una vera e propria epica che divide l'umanità in maniera manichea in grandi tronconi. Migliori, più forti, quelli che timbrano in orario e poi riguadagnano questa loro alacrità ingannando il tempo attraverso raffinate e intelligenti maniere di fregare il proprio datore di lavoro. Ai tempi di Fantozzi si giocava alla battaglia navale, si giocava a scacchi, oggi si naviga in rete, si va su Facebook, ci si fanno i profili, un anno fa si andava in Second Life. Il cartellino è così il salvacondotto per vivere in quella specie di limbo temporale che è la giornata del pubblico dipendente. Guai chi pensa di poter aggravare la coscienza di quel povero meschino, ma fortunato, con l'onere insopportabile di dover ottimizzare quel tempo, o magari costringerlo a organizzarsi in autonomia quella pausa morbida in cui, affrancato da ogni ambascia e da ogni responsabilità e da ogni cimento competitivo. Il lavoratore cartellinato ha legato il suo patto con il mondo del lavoro al rispetto di un orario. È un impegno che non richiede improvvisazioni quotidiane, sollecitazione a inventare, creare o terribile e schifosissima parola a produrre. Chi mai vorrebbe che questo abbia fine? Con l'alternarsi di saggi governi, il popolo italiano ha ormai raggiunto un alto grado di maturità. I lavoratori, operai e impiegati hanno finalmente capito che la produttività è alla base del benessere sociale e l'unica strada per uscire dalla crisi. Fateci entrare, vogliamo lavorare! Oramai le due grandi piaghe dell'assenteismo e del secondo lavoro che tanti danni hanno provocato all'economia italiana possono dirsi finalmente vinte e debellate. Via! Il secondo lavoro dove ce l'ha lei? Alle poste. Ah, bene, potrebbe darmi un passaggio perché io stamattina sono venuto senza macchina. Scusi, lei non era l'anagrafe. Sì, ma io ne ho tre di lavori. Tre, già. 800 24 0024. Alzate gli occhi dalla vostra battaglia navale, raccontatemi facendo un giro d'orizzonte con le vostre bifocali cosa accade sulle scrivanie ricoperte di forfora del vostro vicino. Immagino che questa mattina probabilmente qualcuno, qualche impiegato, qualcuno che è costretto o liberato dagli affanni di dover prendere decisioni dal cartellino appena timbrato mi stia ascoltando. Qualcuno mi sta ascoltando e allo stesso tempo è collegato a Facebook, nei quei pochi uffici, in quei pochi luoghi di lavoro dove ancora non è scesa forte, implacabile, la mannaia del firewall che impedisce all'impiegato di poter divagare, di fare questa meravigliosa scoperta che la macchina che lo inchioda come schiavo al posto di lavoro in realtà è l'ale, la coppia di ali che lo fa volare leggero fuori dal suo giogo impiegatizio. Beh, qual è oggi la mistica del fantozzismo contemporaneo? Cosa pensa oggi l'impiegato? Come elude l'impiegato? Come impiega il suo tempo libero lavorativo l'impiegato? 800 24 0024. Impiegato in senso lato, impiegato è colui che comunque fa un lavoro dipendente, colui che oggi è un fortunato, colui che oggi è un impiegato in un momento di fluidità, di mobilità, di fantasia creativa, chi comunque è ancorato all'onere di un cartellino, all'onere di un lavoro, alla fuga da una responsabilità, che sa che quando esce, quando timbra il cartellino d'uscita, per lui si chiude la saracinesca dei pensieri legati al lavoro, non come chi deve inventarsi il lavoro ogni minuto, ogni giorno, gratificato probabilmente, da remunerazioni lussuose e corpose, ma sta sempre sulla corda, deve sempre stare con i ricettori attenti e accesi sul mondo, perché il suo lavoro è cogliere quello che gli altri non colgono. 800 24 0024. Datemi dei segni tangibili dal mondo del lavoro dipendente di come si riesca a fuggire, di come ci si inventa fattozzi degli anni oltre il 2000. Nel frattempo vogliamo darvi una prima sollecitazione. Tempo fa, casualmente, intervenne una nostra ascoltatrice. Una signora che era talmente soggiogata dall'onere del proprio lavoro quotidiano che mentre parlava con noi digitava la tastiera. Molti sorrisero, molti pensavano che fosse un effetto messo da Paolo Corleoni. Avete messo un ticchettio sotto la telefonata, ci prendete in giro. No, lei veramente era radicalmente, geneticamente, visceralmente multitask. Anche se era analogica, anche se era un'impiegata, anche se era una persona legata a una tastiera che non poteva permettersi di togliere le mani da quella tastiera nemmeno quando parlava al telefono. Beh, colei, che si chiama Daniela, oggi sarà la storia che solleciterà le vostre partecipazioni al tema del Fantozzi negli anni contemporanei. Io sono Daniela, ho 46 anni e sono impiegata delle poste già da 23 anni. Io adesso sono addetta alle videocodifiche. Questo lavoro lo faccio da solamente 3 anni, anche se a me sembrano molti di più fare il tipo di lavoro. Il mio lavoro consiste nel codificare delle lettere. Tramite un sistema di computer queste lettere mi compaiono sopra il mio video. Io devo inserire l'indirizzo, devo digitare la via e quando il computer me lo richiede anche il numero civico. Sembra che dai tempi in cui Fantozzi era legato alla sua penna stilografica, nel suo sottoscala, per cui bastava che si alzasse sull'attenti quando un superiore lo chiamava al telefono perché battesse la testa. Quelli erano i paradossi pensati da Paolo Villaggi, una situazione impiegatizia negli anni del boom economico, in cui alcuni caratteri vessatori, che hanno sempre fatto parte della letteratura, della storia del mondo impiegatizio, pensate soltanto a Kaki Akakievich, il protagonista dello stranoto racconto di Gogol, il cappotto, l'impiegato sfigatissimo che ha un cappotto ridotto a una sorta di trama di carta velina e finalmente decide, risparmiando, impegnandosi, facendo dei passi più lunghi la sua gamba, di comprarsi un lussuoso, ben tagliato cappotto con un bel collo sontuoso. Questo cappotto glielo fregano, questo cappotto che improvvisamente ridà a lui dignità, esistenza nel mondo degli altri impiegati, che lo consideravano un rimasuglio umano proprio perché era il più disgraziato tra i disgraziati, improvvisamente gli apre le porte della piccola società del mondo degli impiegati. Non più mobbizzato, diremmo oggi, Akaki Akakievich viene, entra come se fosse nel caldo ventre della società che per lui rappresentava il massimo dell'esistenza, nel mondo degli impiegati, però gli fregano il cappotto. Assolutamente questo suo momento di frenesia dura pochissimo tempo, un po' come la piccola fiammiferaia che nel corso dell'accensione di uno zolfanello vede ciò che della vita lei non ha mai avuto. E quindi comincia una necessaria richiesta di aiuto, risalendo le gerarchie impenetrabili e soprattutto implacabili, solamente non condizionate da quello che è il dramma dell'impiegato, dei suoi superiori. Mi sembra di ricordare, lo ricordo a braccio, molta poca memoria e sono letture lontane, che a un certo punto compie un gesto per lui è drammatico, parlando con un superiore, con uno sputacchio, coglie preso l'emozione del superiore, quindi viene preso dal rovello di cosa fare, giustificarsi, chiedere scusa, scrivere, facendo questo aggraverà la sua situazione. Beh, arriva in una situazione talmente paradossale che alla fine morirà e si aggirerà la notte questo fantasma inquieto di Akaki Akakievich, che vorrà strappare i cappotti a tutti quelli che lo hanno. Cappotto è sintomo dell'accettazione impiegatizia. Beh, oggi qual è l'equivalente del cappotto di Gogol? Oggi che state voi lì alla tastiera, magari mi ascoltate nascostamente con l'auricolare in streaming, cercate in qualche maniera, o perlomeno state a casa perché state in malattia, non avete paura di incorrere nelle ire di Brunetta, quindi avete l'influenza e state a casa, beh, quali sono oggi gli status corrispondenti nella lussuosa gerarchia delle considerazioni aziendali del cappotto di Akaki Akakievich? Lavoro con due lettere alla volta, cioè una è sopra e l'altra è sotto, come codifico una mi compare immediatamente l'altra e devo avere un certo tipo di velocità in quanto... il nostro capo spesso ama cambiarci la pausa fra una lettera e l'altra, cioè io ho un tot di tempo per digitare tutte le informazioni che sono necessarie per avviare la lettera. Ad esempio, se io dovessi prendere un fazzoletto dalla borsa e soffiarmi il naso, la lettera mi scompare, quindi io devo riavviare lo starter per averne un'altra, ma il computer centrale segna che io ho perso una lettera. Se io perdo tante lettere vanno a negativizzare la mia pausa, cioè io ho diritto a 10 minuti ogni ora, però se mi scappano tante lettere ovviamente il computer va in pausa un secondo, due secondi, tre secondi, alla fine della giornata ho meno pausa. Interessante notare nel piacevole e gioioso martirio quotidiano di Daniela il suo rapporto con la macchina. La prima cifra che possiamo identificare nel rapporto fra impiegato e burocrazia, e mondo del lavoro, e superiori, e mega direttori galattici, è proprio la mediazione della macchina. La stessa macchina questa mattina si è meritata l'onore delle cronache, perché la macchina attraverso cui gli impiegati fuggono dal loro luogo di lavoro, attraverso Facebook, attraverso il social networking, attraverso le chat, attraverso tutte le maniere di evasione informatica, in realtà è lo strumento indissolubile che li lega al proprio lavoro. Per Daniela il rapporto sadico del superiore, che equivale aver messo la statua di bronzo della madre nell'ingresso nell'atrio di fronte a cui tutti gli impiegati devono inginocchiarsi. Fantozzi lo fa ogni volta battendo la fronte sul ginocchio della madre del suo direttore galattico, del suo conte duca, la costrizione di guardare il film La corazzata Potemkin, l'obbligo di fare la maratona in bicicletta, la partita a biliardo, ecco, tutte le vessazioni inutili e apparentemente gratuite attraverso cui si suggella il meccanismo di vessazione e di possesso del superiore, che è una divinità astratta, metafisica, nei confronti dell'impiegato, qui si riducono in automatismo della macchina. Cambiare la spaziatura nel software della macchina a cui lei è inchiodata significa per lei creare dei problemi enormi. Improvvisamente si sfasa la sua programmazione umana quotidiana nel rapporto con la macchina e cambia qualcosa, e si rompe il senso di quiete e di tranquillità che è l'unico vantaggio di colui che deve considerare la sua vita utile scandita tra due timbrature di cartellino. Al mattino a volte siamo due persone, si sta davanti a questi computer che sono in una stanza con delle isole. Ogni isola ci sono quattro computer, ognuno col suo tavolo, e ci sono dei separè. Tu quasi non ti vedi con la persona che ti lavora accanto, cioè se ti devi vedere devi sporgerti al di là dei separè, ma poi in ogni caso se per caso scambi due parole ti scappa subito la lettera, quindi conviene lavorare e parlare come sto facendo io in questo momento. Già mi cominciano ad arrivare proprio su Facebook i primi messaggi disperati, messaggi nella bottiglia degli impiegati che stanno clandestinamente digitando e si collegano con la trasmissione radiofonica. Christian mi scrive una sua riscrittura fatta a caldo, improvvisata adesso. Pensate quanto tempo ha a disposizione nel rapporto con la sua tastiera durante il lavoro, di Fantozzi in chiave facebookiana. Lo scrive proprio Fantocci 2.0. Si chiudono Facebook, resisti e combatti, lo facci per me, Fantocci. Era stato l'ultimo disperato IM, cioè messaggio privato della signorina Silvani, distrutta perché non poteva badare al gattino, che aveva raggiunto importanti successi nella Pet Society. Fantozzi, il cui cuore palpitava ogni volta che cliccava sul profilo, visualizza altro della signorina Silvani. Urlò il suo amore in sala mensa: basta con la censura, diventerò un acaro. A casa la notte, grazie al suo fido Olivetti M20 e il modem a 9006, si collegava a Facebook e copiava a mano tutti i 5600 messaggi quotidiani della signorina Silvani, mentre la sua bic vergava il retro dei fogli a protocollo del concorso del 75, Fantozzi piangeva per il dolore alle dita, ma in fondo era felice. Le attività che posso fare, faccio pranzo seduta al computer, perché la pausa dopo mezzogiorno avrei soltanto una ventina di minuti, preferisco dedicarli a passeggiare fuori piuttosto che a mangiare, quindi mangio seduta al computer, mi porto di tutto, frutta, panini, insalata di riso, bistecche già tagliate da casa, perché tagliare la carne per me sarebbe un problema, mentre digito nello stesso momento. Praticamente nell'attimo in cui ho la lettera lì, posso infilare la forchetta, prendere un pezzo di bistecca e poi riposare velocemente la forchetta, non farmi scappare la lettera e continuare a digitare. Si capisce che quello tra Daniela e la macchina ormai è un rapporto sensuale, ha perfettamente metabolizzato e anticipato nel suo status di cyber impiegata quella che Perniola chiama la seduzione dell'inorganico. Lei è l'amante della sua macchina e deve scandire i tempi di alimentazione della macchina con il suo lavoro apparentemente ripetitivo, inutile, ma in fondo è un carezzare i tasti con la macchina, in fondo è avere un rapporto viscerale con quella macchina, con la sua nutrizione. Quindi trova la lettera giusta che gli permette di liberare la mano e gli permette allo stesso tempo potersi nutrire. Quindi si nutre lei, nutre la macchina, e facendo questo ha un abbraccio continuo e indefesso con lo strumento che la rende schiava, ma in fondo la rende anche felice. infatti ho avuto un rimprovero perché il suono del mio telefono sembrava disturbare, mi è stato detto dal direttore in persona che io non devo telefonare né ricevere telefonate nell'orario di lavoro, allora io per salvarmi da questo ho messo soltanto la vibrazione, così quando suona il mio telefono nessuno se ne accorge, parlo a bassa voce con chi devo parlare e non disturbo più nessuno. Noi non siamo collegati con internet e le nostre postazioni, poi se i nostri capi dai loro computer ce l'hanno io non lo so, ma noi abbiamo soltanto le lettere di Torino, è un computer che fa solo quello. Quindi se vogliamo dare al computer di questa signora il ruolo di rispettabile e lecito coniuge con la quale lei si accoppia per 8 ore al giorno, il suo amante è il telefonino, un'altra macchina che in fondo reclama la sua parte di attenzione. E lo tiene nascosto, come se ne è nascosto un amante nell'armadio. La vibrazione l'avverte che qualcuno la chiama. Deve deludere naturalmente la macchina, non deve farsene accorgere, allo stesso tempo deve non farsi accorgere dal suo superiore. Melog 2.0. Ho trovato il modo di salvarmi, diciamo, nel senso che posso pensare ai fatti miei per tutto il tempo. Lo stipendio tutto sommato è uno stipendio statale, è sicuro, prendo sui 1050, è un'alienazione totale della persona, specialmente per il tipo che sono io, cioè decisamente sono proprio costretta a fare questo lavoro e non c'è modo di scappare, e ho paura che lo farò fino a quando non andrò in pensione. 800240024, mistica del quotidiano impiegatizio, mi scrive Gianni su Facebook, che è uno degli impiegati che ancora ha aperto il firewall aziendale, dice: Brunetta disse basta battaglia navale, mi scrivono dei componimenti, così alzai gli occhi dal mio foglio quadrettato e scoprì un mondo incredibile, l'ufficio, i colleghi, persone, maschi, femmine, omosessuali, incurvati sui piani dello scrittoio, intenti a concludere il loro far niente, a nasi come aghi di bussole rivolte verso il monitor del computer, con a fianco occhi fermi, vitri, a guardare il virtuale, e carta su ogni piano, montagne, lettere, fatture, comunicazioni, biglietti, sono confuso, spaventato, tutta roba da fare o da evitare, l'orribile suono causato dal continuo ticchettio delle dita sulle tastiere, l'assordante suono delle ranocchie che saltano e gracciano quando sbaglia a scrivere, ogni tanto un rospo a segnalare l'errore grave, ho paura, che ci faccio qui? Pietro, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Pietro, scusi, l'ho fatta aspettare tanto tempo al telefono, ma volevo che lei avesse cognizione del materiale che ponevamo alla sua attenzione. Lei è una sorta di emissario del Conte Duca, lei è l'informatico che stana i facebookari impiegati. Assolutamente sì, e comunque devo dire che mi ritrovo abbastanza bene con il parallelismo fantoziano, diciamo così. Perché se una volta la gente giocava a battaglia navale, adesso la gente gioca con i browser game, quindi sempre in internet collegati a giocare con altri utenti di altre aziende, diciamo così. Ecco, cioè, vediamo un po' di capire, perché sembra una cosa superficiale, noi ci scherziamo, anzi noi incentiviamo al lassismo aziendale, perché a me conviene che la gente stia su Facebook e ascolti la mia trasmissione, ma onestamente è un po' difficile conciliare l'attenzione a un lavoro al computer con il gioco. Assolutamente sì, ma poi c'è il secondo lavoro, ad esempio, c'è tutta una categoria di persone che utilizza, diciamo così, eBay. Si procura oggetti da vendere da vicini di casa, amici, parenti, e durante l'orario di lavoro segue le aste in modo da percepire una percentuale sui guadagni, ad esempio. Senta, adesso le dico, improvvisamente mi si è aperta la mente, la memoria del mio passato impiegatizio. I primi anni in cui collaboravo alla RAI, nei corridoi dell'azienda pubblica c'era un passatempo doppio lavoristico, le venditrici clandestine di mutande, c'erano impiegate RAI che venivano con dei grandi borsoni, nelle ore di pausa vendevano mutande, reggiseni, maglioncini, biancheria di tutti i tipi, arrotondavano vendendo alle colleghe, era una sorta di mercimonio tollerato, venivano lì, sceglievano, andavano a provarsele in bagno, poi tornavano, le riportavano indietro magari, cioè c'era tutta un lavoro molto che ferveva moltissimo. Poi, come dice giustamente Nicolas Negroponte, l'atomo si trasformato in bit, la stessa cosa oggi avviene, come mi dice lei, su eBay? Sì, sinceramente io penso che sia tutto uguale a quello che succedeva una volta, solamente che grazie al mezzo internet, che si sa accorcia notevolmente le distanze, diciamo così, permette di ampliare, diciamo così, il bacino di utenti lassisti, diciamo così, a disposizione di un ufficio, ecco. Le pongo, visto che lei è esperto, le pongo un altro mio ricordo analogico e antico. Lei mi dirà oggi, con i mezzi informatici, come si colma questa lacuna. Gli amori di scrivania. So che è un argomento pruriginoso, mi scrivono tanti, tu parli soltanto di cose oscene, zozze, però va parlato. Nel passatempo aziendale c'è anche il corteggiamento del collega o della collega, l'amore muto, l'accompagnamento a mensa, questa sorta di doppi matrimoni che si svolgono in anni di vita impiegatizia. Vedi due che stanno assieme, tutti lo sanno, tristissimi come marito e moglie, non sono amanti, è una seconda moglie, un secondo marito, ma fa parte del grigiore della vita impiegatizia. Nei miei lontani anni di frequentazione dei corridoi di Viale Mazzini esistevano cose simili, si narrava di una famosa storia di cui è entrata nella letteratura, del dirigente con la segretaria colti nottetempo in amplessi dalla guardia giurata che fu cacciata perché ha osato interrompere quella sorta di straordinario. Si parla addirittura, mi dicevano, le antiche pensionande Rai, che nei primi anni in cui andò l'azienda pubblica nel palazzo di vetro per ovviare alla indiscrezione di queste vetrate, gli uffici dirigenti mettevano tutti gli armadi contro le finestre perché nessuno potesse vedere quello che accadeva dentro. Beh, oggi cosa accade attraverso le protesi emozionali e negli amori virtuali? Due cose. La prima è che comunque col mio lavoro io ho una visione abbastanza trasversale di tutto, perché naturalmente io riesco a controllare, diciamo così, quello che fa il dirigente, a quello che fa l'ultimo impiegato, insomma. E quindi poi l'importante del nostro lavoro, appunto, è mantenere comunque una certa discrezione su tutto. Sì, però in maniera anonima lei può raccontarmi quello che vede senza fare riferimenti. Ma diciamo che i datori di lavoro normalmente sono, almeno nella mia esperienza, che quelle del nord-est, sono nella piccola e media impresa, sono, diciamo, mi dispiace sfatare il mito, però sono abbastanza dediti al lavoro. Eh no, okay? Ci fa piacere, so, è una bella notizia, mica. Cioè, nel senso che comunque hanno parecchio da fare. Anche perché hanno delle responsabilità, naturalmente. Sì, anche. Saranno anche incentivati sui loro risultati, quindi logicamente lavorano. Ed è meno legato al mezzo. Quindi uno, forse il fatto che io non posso controllarli così tanto, perché comunque il loro lavoro non è sicuramente stare davanti a un terminale tutto il giorno. E poi però c'è un'altra cosa. Se noi vogliamo parlare di Fantozzi, non del mega direttore Galati. I datori di lavoro, quelli capi, adesso, diciamo così, perdono parte del proprio tempo a controllare effettivamente che i dipendenti facciano quello che devono fare. Ma lei riesce anche a individuare tresche nell'ambito dell'ufficio guardando i tracciati dei computer? Ma quelle si individuano tranquillamente senza usare i tracciati del computer. Una cosa che però volevo fare presente, forse è più importante da capire, è una cosa che secondo me molti non tengono presente. Comunque è importante salvaguardare la propria privacy sempre e comunque. Quindi in ogni caso, anche in caso di tresche amorose virtuali, oppure la gente che pensa di essere davanti a uno schermo e di non essere individuabile o rintracciabile e potersi permettere di fare quello che vuole quando vuole, questa cosa non funziona. Cioè, sì, vabbè, questo l'abbiamo detto spesso, lei non ci vuole dare la ciccia interessante, ho capito, ci gira intorno. La ciccia interessante potrebbe essere il datore di lavoro che perde 4 ore al giorno per controllare gli schermi dei propri dipendenti, potrebbe essere il... Quindi dice questo, diciamo, ha un costo aziendale comunque, questa libertà di potersi muovere attraverso la rete in ambiti e in luoghi non propriamente professionali fa perdere tempo anche naturalmente a chi ha un onere in più, che è quello di osservare le derive virtuali dei propri impiegati. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Lei non ha mai avuto problemi del genere? No. Anzi, mi sento dopo questa testimonianza un po' fuori luogo. Io appartengo un po' a un altro mondo, volevo portare un po'... Però sempre di catena di montaggio, ecco, ridotta a un robot, come sentivo i tasti di quella lì, io invece le tasti di una macchina per 22 anni. Dopodiché dopo 22 anni a testa bassa, marcare il cartellino, non poter alzare la testa, io che sono fatta per comunicare, per... rischiavo la follia. Non ho fatto una grande carriera, però come qualità di vita da 15 anni la mia vita è cambiata. E cosa fa da 15 anni? Ah, una grande carriera, faccio le pulizie. Però io sono serena, vado a letto, non ho l'ansia. Aspetta, la mattina... non è vana la sua... Lei fa pulizie dove? Negli uffici? No. Faccio la pulizia in una splendida villa che sono... Loro la mattina escono, sono sola, mi trovo molto bene. Ma quindi c'ha ragione, non c'entra proprio niente. Non c'entra niente, ma però... Ma vabbè, è piacevole sentirla. Però volevo solo dire... Però io l'ho fatta per 22 anni, questa vita di testa bassa... Il prezzo da pagare è troppo alto, secondo me. Sì, però essere operaia della catena di montaggio non è esattamente quello che... Non corrisponde esattamente a essere impiegati, comunque. Ho capito. È un lavoro molto più oneroso, sì, probabilmente. Sì, però sentendo quella lì, la testa bassa, un po' mi ci rivedevo anch'io con questi tasti di sottofondo. Io Una macchina. Diciamo che l'entrata delle macchine come strumento, principio di lavoro, ha un po' assimilato il lavoro dell'impiegato. Fantozzi aveva una penna stilografica e vergava pratiche dalla mattina alla sera. L'impiegato, adesso che è passato a gestire una macchina, paradossalmente fa un passo al dietro, mentre per l'operaio alla catena di montaggio essere impiegato significava salire un gradino nella catena gerarchica delle attese di lavoro, oggi l'impiegato è ritornato a fare un lavoro molto meccanico, molto legato a un componente meccanico come quello del computer, a meno che, come Daniela, stabilisca con lui un rapporto amoroso. Stiamo cercando di lacerare il velo apparentemente impenetrabile dei rituali impiegatizi contemporanei. C'è molta reticenza, anche perché gli impiegati saranno bravissimi a non farsi accorgere quando assumono derive fantastiche e escono dalla loro condizione di schiavitù per spaziare nei mondi virtuali, ma probabilmente in questo momento hanno un controllo maggiore, vuoi per circostanze legate alla contingenza, vuoi perché proprio di questo si parla in questi giorni, e quando si vede un impiegato a testa bassa davanti al monitor che ticchetta attento, naturalmente il sospetto che non stia proprio a sbrigare pratiche viene. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Lei è un libero professionista, ma sta cercando di trattare per entrare a fare proprio un lavoro dipendente. Sì. Quindi lei è un aspirante fantozzi, mi scusi il termine. Sto entrando piano piano nelle vesti. Beh, questo conferma quello che abbiamo detto all'inizio. In un momento di incertezza, in fondo, avere qualcuno che stabilisce cosa dobbiamo fare per 8 ore al giorno è anche un grande motivo di serenità, angoscia in meno, ecco. No, quello diciamo è la parte dolorosa. La parte vantaggiosa è che il 27 del mese c'è poco da pensare come guadagnarsi lo stipendio. Quindi allora arriva in automatico. Vediamo il passaggio, come lo vede lei, come lo prevede. Lei finora cosa ha fatto? Io lo vedo, le sensazioni che sto provando in questo momento. Il fatto che già alle 10.49 sto ancora in giro con la macchina per andare al lavoro vuol dire che non sono ancora diventato totalmente fantozzi. Perché appunto Fantozzi è già dentro da un paio, anzi già ha fatto la pausa caffè, già ha fatto la chiacchierata, è andato a fumarsi la sigaretta nel fumoir oppure fuori del balconcino, già si è scaccolato, già ha aperto e messo in ordine il cassetto, già ha acceso il computer, già ha fatto una giratina su eBay per vedere se si può vendere qualche calzino bucato, insomma già ha impiegato fattivamente la sua giornata. Invece nei giorni in cui non mi contento questa libertà, perché appunto la libera professione non mi richiede quell'attività. Che tipo di professione fa lei, se possibile? Ingegnere. Quindi lei... E quindi come impiegato sarei impiegato all'ufficio acquisti di un'impresa di costruzione. Allora, non lo sente come un passo indietro dal punto di vista della gratificazione? Sì, senza dubbio. Però l'importante è... In maniera fortissima. Però uno baratta la tranquillità con... Il fatto di sentirsi... No, considerato come sta andando adesso il mondo, preferisco. La dignità ormai l'ho iniziata a sottovalutare. O la mettiamo in altre cose, forse. Sì, senza dubbio. Va bene. Mi fa piacere che in fondo conferma un'intuizione che avevamo avuto all'inizio. Mentre Fantozzi viene considerato nella società ottimistica degli anni 80, 70 e 80, in crescita, aperta chissà quali soluzioni fantasiose, come un refluo ormai in via di scomparsa di una visione gogoliana dell'ufficio, del mondo del lavoro, delle prestazioni, oggi viene vista invece come un punto di arrivo. Forse Ernesto può dirci qualcosa in più, che è psicologo. Ernesto, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io sono un suo vecchio ascoltatore da prima che si anagrammasse. Niente, pronto, mi sente? Come no, sono qua. Niente, io volevo porre l'accento su quello che in tutte le grandi città è un po' il fattore che fantozzizza tutti quelli che la mattina si recano al lavoro, ossia il traffico, il districarsi tra le macchine, che mette ansia e dà grosso stress a chi magari non abita tanto vicino al proprio lavoro e deve recarsi al posto di lavoro con il rischio di arrivare in ritardo. Beh, infatti Fantozzi tentava molte volte l'impresa impossibile di prendere l'autobus al volo buttandosi dalla finestra. Io credo che prima della condizione fantozziana dell'essere un dipendente frustrato c'è questa un'anteprima di frustrazione causata dallo spostarsi nelle grandi città, il traffico, questo doversi districare tra un mare di macchine o rinchiudersi come una sardina. Beh, una transumanza organizzata quotidiana in cui tutti, esatto, comunque siamo accomunati dal fatto di essere inscatolati. Io sì, vedo le cose fantastiche quando mi capita, raramente, i giorni che non lavoro, gli altri lavorano, ciò che accade dentro gli abitacoli, noto queste tecniche avanzatissime di trucco in coda, in cui lo specchietto retrovisore diventa lo specchietto per truccarsi, in cui tutti i rimmel, i rossetti, gli ombretti sono sistemati sul cruscotto, in cui con una mano si cambia marcia e con l'altra ci si batuffola la faccia, non so se è il termine esatto, ma poi esistono cose meravigliose che accadono, alcune ne ho già citate, come l'ispezione delle narici accurata e profonda, ce ne sono tante di cose che si possono fare, insomma il tempo passa velocemente se uno si organizza, no? Sì, certo, tant'è vero, questa cosa mi ha sempre molto appassionata perché ho avuto anche dei pazienti che avevano questo genere di problemi e ci ho scritto un libro che è uscito questo mese a Roma in diverse librerie edicole, una della quale lì a Piazza Colonna. Ma lei è veramente meraviglioso perché lei si è intrufolato, è diventato ospite, si è autosmarchettato, quindi devo dire che sì, delle... questa è una marchetta senza pudore. Sì, ma si figuri, ma ci scandalizziamo. Il titolo del libro è Il ragioniere Esposito Chisciotte, non a caso si chiama Chisciotte perché stufo di questo stress parte, lancia e resta per essere risarcito dello stress, delle ansie, dei disagi, risarcito pecuniario. Va bene Ernesto, abbiamo capito, vadi pure. Marco, buongiorno. Buongiorno. Io volevo testimoniare proprio quel passaggio che diceva, anzi sulla mia pelle ho vissuto il passaggio dal lavoro autonomo al lavoro dipendente. Lei adesso è Fantozzi? Adesso sono un mezzo Fantozzi. Perché cosa le manca per diventare completo e meraviglioso? Mi manca già di ritornare al lavoro autonomo, anche se per un periodo voglio... No, cosa le manca per diventare Fantozzi? L'esperienza va fatta fino in fondo, penso. Non ce la faccio perché... ci metto sempre troppo rispetto a quelli che già sono fantozziani. Ecco. Lei è circondato da Fantozzi? Esatto, sì. Ecco, mi dia il senso, visto finalmente ne ho colto uno, di ciò che accade oggi nelle scrivanie, perché io ho memorie piuttosto lontane. La mia memoria di frequentazioni impiegatizie si ferma, diciamo, a metà degli anni Ottanta. Poi sono andato un po' per altre strade. Guardi, non si tratta di scrivanie, però è il fatto di diventare macchina nell'orario di lavoro. Perché io lavoro comunque nel fai da te, in una distribuzione, appunto cornici, queste cose, una grande... E prima facevo l'artigiano. E quindi, però è comunque questa idea del diventare macchina, e poi la bellezza c'è, che è quella che quando esci, effettivamente, come dice lei, quando esci basta, puoi pensare a fare le cose tue. È un confine, sì, favoloso. Devo però dire non è che si possa avere confine, la botte piena e la moglie ubriaca. Non paragono la mia felicissima condizione di libero professionista con quella di un impiegato. Però l'impiegato, quando esce, non deve pensare più a niente. Questa notte io alle 2 ancora mi arrovellavo sul lavoro che dovevo consegnare stamattina, oltre a fare la radio e fare altre cose. C'è il rovescio della medaglia. Si è limitati nella retribuzione, si è poco gratificati e si guadagna poco. Però quando si stacca veramente. Buongiorno Osvaldo, chiudiamo con lei. Buongiorno, io volevo aggiungere, perché siccome ognuno... A 30 secondi, aggiunga Svelto. Lavori, aggiungo che, parlando di macchine, i telefoni nelle macchine, io sono camionista, praticamente abbiamo sempre poco tempo, quel poco tempo dobbiamo correre da tutte le parti per poter caricarli, scaricarli tutto. Spiego? Sì, però non c'entra niente. Comunque mi sta bene lo stesso, va bene, visto che questa mattina... Sì. nel senso che abbiamo a che fare con i telefoni continuamente controllati, come uno che è per la scrivania, noi siamo al volante, ecco. Sia auto, sia camion. Ho capito il nesso, il camionista si sente il Fantozzi delle autostrade, perché anche lui, stando in fondo in un abitacolo, somiglia tanto all'oculo di Fantozzi, si sente accomunato in questa schiavitù di essere anche lui legato a una macchina che gli controlla il lavoro, in particolare il camionista è particolarmente controllato, e che allo stesso tempo gli impedisce di espandersi come vorrebbe nel mondo meraviglioso di chissà cosa. Non si sa cosa vogliono gli impiegati. Ce lo spiegheranno loro quando avranno il coraggio, il modo e maniera di farcelo sapere, perché oggi veramente sono stati nascosti. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera. Alle 22. Melog 2.0.